La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. C'è un po' di traffico nell'anima. Buonasera, ben ritrovati alla prima volta. Quella di stasera è una storia particolare perché il nostro ospite è un prete, anzi il prete più giovane d'Italia. Una storia che, come vedrete, ha tante prime volte e molta allegria. Quella di Don Emmanuel Santoro è la storia di un ragazzo che a 24 anni fa dunque la scelta di prendere i voti. E una persona, Don Emmanuel Santoro, che vive la sua spiritualità con molta profondità ma anche tanta leggerezza e allegria. La strada di Emmanuel Santoro non sembrava proprio quella che poi è stata. Ragazzo dell'Interland, viene da Cologno Monzese. Emmanuel studia, suona rock e ha una ragazza come tutti gli adolescenti. Poi però qualcosa comincia a picchiare nella coscienza di questo ragazzo ed è da qui che partiamo, da questa prima volta in cui Emmanuel, ragazzino, comincia a coltivare la sua spiritualità, il suo legame con Dio. Io ho scelto di diventare prete perché pian piano, negli ultimi anni delle superiori, ho coltivato dentro un desiderio grande, che era quello di davvero di riporre in una scelta grande, bella, per la vita, la mia felicità, no? Tutta la mia felicità. Io ero un ragazzo normale, insomma, ero contento anche delle cose che facevo. Frequentavo il conservatorio, facevo il liceo scientifico la mattina, tornavo a casa, andavo al conservatorio pomeriggio, giocavo a calcio in una squadra importante, avevo gli amici, avevo una ragazza, quindi di per sé ero contento. Però c'era qualcosa che sentivo non avesse la piena risposta, ecco, come dire. Sicuramente un episodio importante per la mia vita è stato passare da un'esperienza forte di malattia, giusto sì, nel senso che a 15-16 anni ho passato un momento forte di un linfoma così, e mi ha messo dentro tante domande, non è che ho deciso di diventare prete lì assolutamente, però mi ricordo che mi sono un po' scontrato con domande sulla vita, sulla morte, sul peso che alcune scelte possono avere nella vita, sulla gioia di donare la vita per qualcosa di grande agli altri, e poi pian piano ho coltivato l'esperienza della preghiera. Ecco, questa cosa mi ha dato tanto, e quindi così ho deciso di diventare prete, perché sentivo dentro che felice ero felice, però tante domande che ribollevano dentro non avevano ancora pienamente la risposta, e nell'idea di andare, di provare a testimoniare, no? Anche agli altri qualcosa di grande che avevo incontrato, che pian piano ho capito che ci chiamasse Dio, questa gioia grande l'ho sentita prima e ho detto pian piano, perché comunque è stato un cammino in quegli anni lì, anche un po' molto tribolato alla fine delle superiori, ho capito che poteva essere questo, e ho deciso di andare in seminario. Poi anche vuol dire che sono diventato prete subito, ma comunque il percorso di discernimento del seminario dura 6 anni, quindi li ho sfruttati a pieno per capire se fosse davvero quella la mia strada oppure no. E adesso sintetizzare un po' in breve è sempre un po' complicato. No. E comunque è stata poi la strada giusta, perché lei adesso è molto amato anche dai suoi parrocchiani. Tra l'altro lei corre a destra e a manca, cioè la mattina è difficile anche riuscire a incrociarla perché ha diverse messe in diverse chiese, perché è giovanissimo e quindi sfruttano anche la sua giovanità. Mi sfruttano, infatti. è vero, perché sono stato affidato ad una realtà di Milano, del centro di Milano, in zona Brera, dove lavorano insieme 4 parrocchie, e quindi io seguo la pastorale giovanile di queste 4 parrocchie, di San Marco, San Speciano, San Bartolomeo, Santa Maria Incoronata, e quindi sì, giro da una parte all'altra, mi hanno regalato una bicicletta e la uso. Sì, esattamente. E Poi un'altra cosa che lei non ha abbandonato è stata invece la musica, quindi diciamo che quella parte di vita precedente, quindi la ragazza e comunque tutta una serie di cose che faceva prima, ha fatto delle scelte, però la musica è rimasta forte, preponderante nella sua vita. È vero. Perché, l'amicizia con la musica è nata fin da piccolissimo, perché la mia mamma cantava lirica alla Scala da giovane, e io che sono l'ultimo di quattro figli, ho visto in casa già, diffondersi questo spirito musicale fin da subito, perché mio fratello più grande suona e fa musicista proprio di professione, mia sorella canta ancora, molta musica, e quindi fin da piccolo l'ho preso all'inizio un po' come gioco e poi pian piano l'ho studiata, perché mi sono diplomato in conservatorio di tromba al Conservatorio di Milano, e questa passione che all'inizio, perché ero appena entrato in seminario, avevo un po' paura di dover lasciare, in realtà ho scoperto un mondo anche in seminario, e in seminario ho trovato altri ragazzi come me che condividevano, oltre alla passione per la vita, per questa scelta di vita per diventare sacerdote, anche la passione per la musica, e abbiamo messo su una band per suonare pop, rock, così, con la quale facevamo serate di concerto testimonianza, dove attorno a un filo conduttore spesso era magari un personaggio piuttosto che un tema come, non so, il viaggio o qualcos'altro. Raccontavamo un po' la nostra vita e le nostre scelte vocazionali attorno a delle canzoni rock italiano, quindi tipo Lina Gull, Vasco, Giovanotti, musica bella per i giovani, e facevamo questi concerti dove veniva tanta gente, era molto bello, divertente. Lì suonavo la batteria, ad esempio. E in un progetto così in realtà ci credevo tanto, proprio tanto tanto, perché secondo me può essere un mezzo davvero efficace, anche se efficace è magari la parola non correttissima, no? Ma un bel mezzo, ecco, per conciliare le passioni della vita e provare a trasmettere un messaggio che viene dal profondo, no? Questa cosa tant'è che l'ho coltivata non soltanto in seminario, ma adesso che sono stato mandato qui a Milano, ho cercato e ho trovato quasi per provvidenza dei ragazzi qui del gruppo giovani che ho messo su in quest'anno. I giovani universitari, bravi, in gamba, che si fanno tante domande sulla vita, che suonano anche, abbiamo messo su un'altra band, dove sono la batteria anche qui, che sono poi chitarristi, cantanti, tastieristi, una classica formazione diciamo pop rock italiana sostanzialmente. Questa passione è rimasta, come no? Perché poi secondo me la musica aiuta anche a coltivare tutta una parte di spiritualità che altrimenti forse resta un po' acerba. Ma guarda, secondo me hai pienamente ragione, perché cioè, fin da sempre, da secoli in memoria, la spiritualità, anche l'esperienza stessa della Chiesa è stata legata alla musica, no? In forme diverse, perché ogni epoca sicuramente esprime anche forme musicali differenti. Noi adesso viviamo in un mondo, anche in una cultura, dove la musica è preponderante, cioè certo magari un tipo di musica, se vogliamo, no? Più che altro se pensiamo alla fascia giovanile, cioè un grande live vanno 50.000 persone, 60.000 persone, questa cosa non può non interrogarci, no? E quindi direi che sicuramente può essere un tramite, no? La musica, questa è la mia idea, permette di amplificare certe corde che si toccano con i temi della spiritualità, della fede, della vita, della gente. È così, sicuramente. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La prima volta. a cura di Cristina Carpinelli. Di nuovo in compagnia di Don Emanuel Santoro, 25 anni, che ha al suo attivo un record, è il prete più giovane d'Italia, una storia che passa dalla musica, perché Don Emanuel ha un gruppo in parrocchia e suona canzoni di Ligabue e Jovanotti che stiamo sentendo, un ragazzo che porta tanta allegria ma anche molta profondità spirituale e abbatte soprattutto tantissimi stereotipi e luoghi comuni. Contadino del cuore, la mia gioia mi costa sudore. Io rispetto alla mia giovane età mi viene chiesto un impegno, una responsabilità che non è da poco. Questo sì, non è da poco, anche perché poi la realtà a cui sono stato affidato per Milano è una realtà molto importante, molto significativa, e quindi ci sono tutta una serie anche di aspettative, di condizioni anche dentro cui collaborare, lavorare, che sono da prendere in considerazione. Sicuramente gli altri sacerdoti con i quali collaboro sono molto in gamba. In gamba sono anche molto più grandi di me, quindi hanno una grande esperienza, però appunto la mia giovane età mi chiede di mettermi sempre in cammino, correre, fare, perché ho tanto da imparare, sicuramente, tanto da imparare. E invece in casa, quando lei ha deciso di scegliere questo percorso, come è stata presa la sua scelta? Ce l'hanno sostenuta oppure ha dovuto fare un po' fatica per convincerli? Allora, guarda, in casa ho avuto una situazione un po' articolata, nel senso che la mia mamma era contentissima proprio, mi ha sempre sostenuto, mi ha accompagnato nelle scelte. La mia mamma è anche una figura che nel mio percorso di fede ha significato tanto. E mio papà invece, al contrario, un po' per bilanciare la questione, non l'ha presa bene, ecco, non l'ha presa bene decisamente. Poi mio papà è molto buono, quindi mi ha sempre accompagnato. Però diciamo, ma perché? Che... cos'è che contestava questa scelta? Cos'è che fa paura a un genitore di un figlio che sceglie di diventare prete? Allora, ci potrebbero essere tante cose. Io penso che una delle cose che potrebbe dispiacere a un genitore è magari rispetto a progetti che uno si fa. Ecco, questo sì. Ad esempio, io prima di entrare in seminario avevo vinto una borsa di studio per andare a studiare economia e management, no? Qui a Milano, università importante. Uno si può anche immaginare, no? Secondo altre strade. E poi interviene alla voce di Dio. E lei ci ha mai pensato a quella seconda porta, quella strada che non ha mai preso? Ci pensa ogni tanto oppure è andata via così? E Come no, certo, sì, certo, perché uno mica deve scappare rispetto ad altre cose, no? Uno, come dire, si chiama scelta apposta perché uno può guardare in faccia, no? Si chiama discernimento perché uno vede le cose e dà i nomi giusti alle cose che incontra. Quindi sì, certo, alcune volte ci penso. E penso che potrei, come dire, avrei potuto essere contento, molto anche in quella strada lì. Però non sarei stato forse pienamente onesto con me stesso, perché se sentivo questa cosa dentro forte, allora ho deciso di verificarla, no? E pian piano, verificando questa voce che ho dentro, ho capito che la mia strada sarebbe stata del sacerdozio. C'è una parte di mondo, diciamo, soprattutto occidentale, che parla della Chiesa ma parla poco dei preti, cioè, e in realtà si danno quasi per scontate figure che invece stanno diventando fondamentali nei quartieri, in alcuni posti d'Italia, io parlo, persone che si mettono appunto a disposizione, no? Come la sua storia, quella che ci ha raccontato, e che diventano una risorsa per la comunità. Eppure quando si parla di Chiesa si parla di qualcosa appunto di molto sfarzoso, oppure si parla in tono accusatorio di qualcosa che sembra molto molto lontana, mentre ascoltando lei la sensazione è di una persona che ha scelto di stare in mezzo agli altri. Certo, condivido questa visione, nel senso che spesso della Chiesa magari ci si ferma a guardare l'aspetto più superficiale, se vuole, il primo impatto, però io sono convinto di questa cosa, cioè che la Chiesa il vero peso, il vero significato della parola chiesa sta proprio qui nella vita quotidiana, sta proprio qui nella vita quotidiana, perché la chiesa siamo noi, siamo tutti, no? Come dire, il Signore ci ha affidato un compito importante, che è quello di portare avanti in comunità, è così che nasce la chiesa, no? La chiesa vuol dire assemblea, quindi proprio delle comunità, il suo messaggio, la sua parola, il suo annuncio, no? Quindi io sono convinto che ce n'è tanta parte della chiesa che magari localmente, magari in piccoli gruppi, però fa tanto bene. Io l'ho vista e direi che sono molto grato per questi incontri che ho fatto. Ma ci sono anche persone laiche che vengono a chiederle aiuto, cioè in questi colloqui, persone che si stanno interrogando anche magari proprio per il periodo storico in cui stiamo vivendo e vengono da lei, le fanno delle domande, cioè ci sono queste persone che cercano un po' un confronto quasi filosofico? Ce ne sono, certo, sì, come no, che si pongono domande sulla propria vita e sulla vita in generale, ce ne sono. Sì, ho grande fiducia su questa cosa. Puntata questa che parla di anime in ricerca, che parla di musica, e allora ne approfittiamo per dare voce a un appuntamento che dà lustro alla nostra arte, all'arte italiana, nel fare musica, appunto. Siamo in compagnia di Marco Patrignani, che è colui che ha avuto l'idea di creare l'Orchestra Italiana del Cinema per dare voce alle colonne sonore, un'idea che è diventata appuntamento internazionale con tanto di tutto esaurito. L'Orchestra Italiana del Cinema è l'unica compagine sinfonica dedicata esclusivamente allo straordinario repertorio della musica del cinema, questo attraverso concerti spettacolari che vedono una grande orchestra sinfonica e contestualmente la proiezione integrale di film, blockbuster, di grandi successi internazionali. Nello specifico ora appunto parliamo di Harry Potter, il primo capitolo della famosissima saga di uno dei più grandi successi cinematografici della storia, che è Harry Potter e la pietra filosofale, in concerto. Cosa significa? Vedremo l'intero film di 2 ore e mezzo proiettato su un grande schermo ad alta definizione con 90 musicisti dal vivo che eseguono la straordinaria colonna sonora di John Williams. Ecco, questi sono concerti che fanno il tutto esaurito. Secondo lei perché? Perché è veramente, credetemi, un'emozione travolgente. Oltre che un'opportunità di avvicinare il grande pubblico alla musica sinfonica, la classica purtroppo non oggi ha qualche difficoltà in più ad avvicinare il pubblico giovane, mentre questa è l'opportunità per conoscere, scoprire l'emozione del grande suono di un'orchestra sinfonica, abbinato però a un'emozione di una pellicola, quindi che porta al grande pubblico anche tutta l'emozione del film. In chiusura diamo voce alla prima volta invece del Festival della Cina, che si svolgerà alla Fabbrica del Vapore dal 5 al 7 maggio a Milano, un festival che si propone di presentare al pubblico alcuni aspetti della cultura tradizionale cinese. Ci fermiamo qui, buona settimana a tutti da Cristina Carpinelli.